Massimiliano? Massimiliano? Massimiliano? Gavino, ci sei? Non è il tempo di attaccare questa radio. Siamo a strano che con 40 watt non arriva qua. Che arrivava Massimiliano, anche se l'altro giorno stavo parlando. No, vabbè, con questa radio che sta dicendo lui, se sta uscendo, però non arriva qua, strana la cosa. Ma qual è, il 3009 o l'altra? L'altra stavo usando, questa sta parlando adesso, il 3009. Ha provato ad attaccare l'altra radio, gli dà la modulazione, gli dà i watt, però noi non l'ascoltiamo. Prego. Avanti. Vedi. Non capisco cosa ci sia. Io ti ascolto qua, Santiago 95. Buonasera Albrecco, un attimino. Massimiliano, io sono 1737. Sto uscendo con il watt a metà. Ciccia, non so, nel canale 20 non ho capito com'era, pure 27205, così è. Sì, un attimino Albrecco, ascolta, vai, tanto te lo segno anche come canale quello, prova ad andare al canale 19 un secondo e chiama. Vai, e poi tornate qua, avanti, stai uscendo malissimo, sei fuori frequenza, no, sempre fuori, sì. È tutta spostata la radio, neanche l'ascolto io. Ci sei Massimiliano? Sì, ho provato, ma non ti ascolto nessun canale, 19, 20, 21, è fuori con la radio. Dai già, riprendete voi, fai entrare il break che io mi devo allontanare dalla radio, là. Ci sentiamo, grazie delle due chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto e ci sentiamo le prossime. Ciao Gianni, Gavino e i vari ascoltori. Ciao ciao. Ci sei Massimiliano? Sì, Gavino, sto chiudendo. Oh, stavo salutando a tutti, dai, che mi devo staccare. Sì, comunque ci sono, qua ti ascolto, ok? Dai, saluto a te, a Gianni, e fai entrare il break, che c'è stato un break. E saluto a tutti, dai, mi devo per forza allontanare. Ciao. Ciao Massimiliano, ciao, buonasera. Avanti, capo. Ciao Massimiliano. No, 27195 non c'è. No, cioè non c'è, non ti ho copiato. Avanti l'altro amico che è entrato. Avanti l'amico, chi era? Era tutto fuori frequenza anche quello lì, forse era ora in FM, sentivo tutto strano. Oh già, prova a passare 27205 già a vedere se mi cupa. Già. Gianni, mi copi Gianni. Gavi, sei parlato, non ti ho sentito. Gavino? Mi copi Gianni? Sì, qua sei, ma là non ti ho sentito. Proprio nada de nada, niente, nulla. A dire che ti ho sentito un po', niente. Vorrà risintonizzata la radio. Magari come era ferma e cosa, è andata fuori frequenza. Vorrà ripresa. Gianni, mi copi? Sì. Scusa se ti disturbo. Prova di nuovo, che forse ho risolto. Mi sono risollevato, capi? Mi pare che eri un po' in paranoia. Sei positivo, dai. E non vado pure a me, non ti credi che io sono un diverso, pure a me. Purtroppo sono problemi che possono succedere. A volte fai cazzate, nel senso che magari tocchi un tasto, te ne senza accorgerti le cose, e poi esci male e tutti non ti sentono. E vabbè, dai, comunque l'interessante è avere risolto. Sì, dai. C'era lo split inserito qua. Come l'hai fatto questa storia? Come stavi spolverandola? Allora, diciamo che ieri notte ero tutta pulita e sicuramente con il cotone ho schiacciato il tastino, però adesso non mi sono accorto che c'era questa opzione inserito, quindi proprio mi scappava la testa questo split, ma io non l'ho messo soltanto, ho schiacciato, tac, e ho messo a posto. Perché poi sono apparecchi che sono un po' complicati, capito? Se non li conosci ti fanno uscire il testo. No, già mi ho letto tutto il manuale, quindi prima di accenderlo mi ho letto il manuale, proprio su quello non c'è problema. E il fatto è che non mi sono proprio accorto dello schermo che mi dava questa scritta split e mi ha confuso tutto, quindi no. Voi. Ho capito. No, vabbè, se c'era lo schermo, io non lo sapevo che era lo schermo. Solitamente quelle radio le vengono senza custodia, senza l'indice, il coso, lo schema, tutto quanto. E vabbè, comunque, è interessante aver risolto. Vai Zello? Gavi, parlate di sì. Gavino, ci sei? Gavino? Gavino, se ci sei sul 23. Gianni. Gianni.